Il punto di Stefano Folli. Non sorprende l'attacco di Beppe Grillo al sindaco di Firenze, Renzi, impegnato, come noto, nelle primarie del Partito Democratico. Significa che il capo del Movimento 5 Stelle sta partecipando anche lui a queste primarie, in modo indiretto, certo, e soprattutto vi partecipa dalla parte di Bersani. Difatti l'offensiva contro Renzi è di una sprezza senza precedenti ed è un bel aiuto offerto al segretario dei Democratici. Non sorprende, dicevamo, perché Grillo preferisce avere come interlocutore Bersani piuttosto che il sindaco fiorentino. Interlocutore e avversario, naturalmente. Infatti questa non è simpatia umana, ma semplicemente Grillo considera Bersani più battibile in una contesa elettorale, quella che è già in corso in questa lunga campagna ormai avviata e destinata a terminare solo fra qualche mese, il giorno del voto. In mezzo ci sono passaggi cruciali come le elezioni in Lombardia e Lazio. Insomma, il grande duello Bersani-Grillo è cominciato e presenterà ancora molte sorprese.